Facciamo il caso che la prestazione sportiva richiesta mi sia una corsa di 100 metri. Se con il tempo e l'esercizio miglioro il tempo di percorrenza e se magari riesco anche a ripetermi, se riesco a concentrarmi sempre sull'obiettivo da raggiungere e se al via sono pronto a scattare come una molla, svolgo complessivamente un'attività che, almeno non mi sembra, non cozze affatto con i miei sentimenti morali. Anzi, forse è proprio per ottenere il massimo del risultato che mi occorrerà anche una certa dose di forza morale. Alla radice del miglioramento di sé, in ogni campo, c'è una scelta di ordine morale. Chi me lo fa fare, perché lo faccio e... Mi imbatto spesso in questi tempi nei giornali in una grande pagina pubblicitaria. Metà è occupata da una fotografia in cui compaiono tre persone in costumi succinti. Due fanciulle in bikini, l'una ghepardata e sorridente, di pelo biondo, l'altra bruna, meno sorridente, abbracciate da un signore in calzoncini e camicia floreale, un po' sovrappeso, con un berretto a visiera da lupo di mare, che se le tiene strette con dita anellate fin nel mignolo. Anche lui sorride, beato, e sembra averne ben donde. Potrebbe esserne il babbo, ormai pensionato, ma non lo è. Sono su un motoscafo, è sera, guardano dritti nell'obiettivo di una quarta persona che li sta fotografando. In fondo alla pagina c'è una lattina, un nome ed uno slogan pubblicitario. Sotto la fotografia, nell'ampio spazio bianco acquistato a caro prezzo, ci sono cinque frasi con il loro bel quadratino alato, no? Come nei test. Allora, migliora le prestazioni fisiche, aumenta la resistenza, aumenta la concentrazione, migliora la capacità di reazione e ispira moralità. Le prime quattro sono barrate, come dire ok, e l'ultima è maliziosamente lasciata in bianco. La bibita in questione, insomma, migliora tutto il resto, ma non ispira moralità. È da ciò che dovremmo capire che il signore in questione non è l'anziano babbo delle due fanciulle, così come la quarta persona, quella che non si vede ma che sta scattando la foto, non è l'infermiere o il badante al seguito. Il fatto che questa bibita non ispiri moralità determinerebbe il programma dei protagonisti. Un programma fatto di prestazioni fisiche, di resistenza, di gran concentrazione e di ottime reazioni. Sorge il problema relativo a chi l'abbia bevuta. L'han bevuta tutti e quattro, l'ha bevuta solo lui, o meglio solo loro due, lui in mezzo, quello che scatta la foto. Occhio e croce, lo sforzo maggiore poi sembra toccare le due ragazze, ma siccome siamo ormai esperti nella decifrazione degli impliciti culturali, non facciamo fatica ad assegnare la bevuta ai maschietti bolliti e neppure una satanità sessuale spontanea, senza bisogno di bibite, alle fanciulle. Sepolto ogni rispetto per l'umana dignità, l'unico elemento ambiguo della storia sta in basso a destra, proprio in basso a destra nella fotografia, perché c'è una brocca con ghiaccio e bottiglia di champagne. Ora, che la bottiglia di champagne sia d'ordinanza in situazioni del genere è noto. Io sono uno che, se per caso mi tocca di sedere a un tavolino di caffè in un porticciuolo, mi siedo dando la schiena al mare. Su un motoscafo vomiterei perfino un sorso di acqua minerale non gasata, figuriamoci dello champagne. Tuttavia lo so. Lo so dai film, lo so dal racconto altrui, lo so dalla pubblicità, per l'appunto, che accessorio ad intercorsi sessuali plurimi su imbarcazioni in acqua è accessorio indispensabile, controparte ideologica del vuoto a perdersi della coscienza collettiva, è la bottiglia di champagne. Sì, d'accordo, ma non qui. O almeno qui con più problemi che altrove, perché qui, per l'appunto, alle funzioni principali ha già provveduto la bibita. La bibita è per lui e lo champagne è per lei. La bibita la beve dopo, quando lo champagne è finito, o la bibita l'ha bevuta prima, magari di nascosto, ecco perché non si vede traccia della lattina, e adesso sorseggia champagne solo così, tanto per darsi un contegno e per far compagnia. Ecco, presumibilmente è così. Lo champagne svolge una funzione meramente ideologica e la bibita l'ha già bevuta. La prova di ciò sta proprio in quel suo sorriso soddisfatto, nonché in quella presa forte di quelle sue due manone che si stanno tenendo strette, le due belle pollastrine. Hanno un bel dire quando qualcuno ci lascia la pelle, hanno un bel dire cerchiamo il colpevole. Fossero liberi di esercitare un minimo di autocritica, ne fossero ancora capaci, non dovrebbero andare molto lontano. Per vendere una bibita, il mercato usa i medesimi argomenti che usa lo spacciatore sotto casa per vendere la cocaina. E se non è abbastanza chiaro l'accento sull'eccezionalità della prestazione fisica conseguente all'assunzione, se non è abbastanza chiaro il corredo di resistenza, concentrazione, reazioni, se per caso si confondesse il tutto con quanto può derivare da un allenamento progressivo, che pur tuttavia è sano entro certi limiti, ma comunque si suggerisce esplicitamente con grande rilevanza che questo insieme di virtù positive va contrapposto alla moralità, che qui è chiamata a rappresentare non tanto o niente affatto la consapevolezza politica dell'individuo, quanto piuttosto la fastidiosa sentinella dei nostri freni inibitori. Non molto diversamente la pubblicità del Vix Vaporub, invece che di fiacchezza o di impotenza sessuale, parla di sintomi da abolire, quelli del raffreddore. Sintomi che, come si dice, possono tenervi svegli tutta la notte. Si parla al plurale, a più interlocutori. E infatti la fotografia ne rappresenta tre, anche qui tre, a letto, tutti addormentati. A sinistra il papà e a destra la mamma. In mezzo il ragazzino che, ecco, prossima preda per psicologi, nonostante sia già grandicello, oltre a stare nel letto dei genitori, stringe a sé il suo orsacchiotto. Dorme lui, dormono tutti, è lo slogan. Qui a chi tocca quanto reclamizzato, è chiarissimo. Il Vix Vaporub è toccato a lui. Il vostro bambino potrà dormire tranquillo e anche voi. Ma anche qui, più ancora della bottiglia di champagne nella pubblicità della bibita miracolosa, salta all'occhio un'incongruenza. Papà e mamma se la dormono al calduccio, sotto il piumone, lasciando il piccolo scoperto. Come se il Vix Vapor fosse stato spalmato non sul suo petto, ma sui termosifoni di casa. Ottenuto il risultato più atteso nell'immediato, che è dormire, il resto non conta, ed esula dalla responsabilità di chi che sia. La coscienza è serena e, in caso di broncopolmonite, poi si cercherà il colpevole. Tre da una parte e tre dall'altra, con una differenza. Se nel primo caso, motoscafo, fanciulle, champagne, se nel primo caso siamo certi che la fotografia è stata scattata dal quarto uomo, ovvero da qualcuno che partecipava alla vicenda, nel secondo, nel lettone famigliola addormentata, siamo altrettanto certi che la fotografia è stata scattata da un estraneo alla vicenda, ovvero da una sorta di spettatore neutrale, non percepibile dai protagonisti. Che ci se ne renda conto o meno, è evidente che qualsiasi cosa si veda noi la si inserisce in una storia e che da questa storia dipenda poi il valore che assegniamo a ciò che vediamo. Sono gli impliciti nei quali viviamo ed ai quali contribuiamo un po' tutti. Vediamo un bambino, un signore ed una signora che dormono, assegniamo loro un'età ed un insieme di condizioni e diciamo che sono soli. Vediamo un vegliardo reso arzillo e due fanciulle, assegniamo loro un'età ed un insieme di condizioni e diciamo che non sono soli. A parità di vedute, non vedendo niente, in altre parole, a parità di vedute, le storie che ci frullano in capo ci vincolano a costituirci o a non costituirci il quarto uomo. E in alternativa, se fossimo proprio propensi a dar tanto, ma tanto, tanto credito alla bibita in questione, potremmo perfino pensare che a far la fotografia sia la terza donna.